Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Importante che noi abbiamo agganciato finalmente il treno della crescita europea. Certamente c'è molta strada da fare, però le decisioni e le riforme di questi anni hanno prodotto risultati. E quando aumentano i consumi e i risparmi delle famiglie insieme, vuol dire che c'è più fiducia nell'economia e nella società. Questa è la dichiarazione del Presidente del Consiglio Gentiloni, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rispetto alla nostra situazione economica. Speriamo che in effetti vada meglio, che si sia davvero agganciata a questa ripresa. In ogni caso, noi ci occuperemo di politica in senso stretto, partitica, perché Mattarella intanto ha dichiarato poco fa in un'intervista che le elezioni, il voto delle elezioni politiche dovrebbe essere probabilmente a primavera. Ha detto non ci sono le condizioni per delle elezioni anticipate, è vero che può succedere, insomma per il momento non ci sono le condizioni. Quindi ci occuperemo di politica, di Prodi, che per esempio ritorna a sollecitare, nonostante le polemiche su di lui, chi era contro, chi era pro in questi giorni, è tornato a sollecitare il sistema maggioritario, dice se no non si va da nessuna parte. Poi domani c'è la grande kermesse organizzata a Roma per creare un nuovo centrosinistra, lanciata da Pisapia, ex sindaco di Milano. Ci occuperemo però anche di molte altre cose, per esempio questa evasione eccezionale di Johnny Lo Zingaro, questo è lo pseudonimo di un ergastolano 57enne che aveva terrorizzato Roma negli anni 80. Ce lo faremo raccontare da chi si è occupato di lui e anzi sta pubblicando per coincidenza proprio in questi giorni un libro sulla sua figura un po' romanzata. Poi sapete che oggi è iniziato il processo d'appello per il delitto di Yara Gambirasio. Bossetti condannato all'ergastolo in primo grado, vediamo come procede invece questo processo d'appello a Brescia. Poi il meteo, insomma un sacco di altre cose, tanto che mi viene il fiatone e adesso vi racconto tra poco in sintesi la giornata. Come sempre questi argomenti, lo sapete, dopo la viabilità comincio ad approfondirli con gli ospiti. Voi potete commentare come sempre le notizie sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349 238 6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. Allora direi intanto la sintesi della giornata. Elezioni politiche, il presidente Mattarella dice è probabile che il voto sia entro inizio primavera e Prodi torna a raccomandare il sistema maggioritario. Renzi Pisapia intanto scontro a distanza per il nuovo centrosinistra. Il caso del piccolo Charlie, i medici concedono più tempo ai genitori per stare col figlio prima di staccare i macchinari che lo tengono in vita. Migranti, il presidente della Commissione Europea Juncker annuncia nuovi aiuti a Italia e Grecia, ma l'Estonia frena, nessuna risposta ci sarà dal vertice di Tallinn. L'evasione di Johnny Lo Zingaro, l'ergastolano terrorizzò Roma negli anni 80, doveva rientrare in carcere vicino Cuneo ma non è mai scomparso. Il delitto di Yara Gambirasio, a Brescia è iniziato il processo d'appello per Massimo Bossetti, condannato in primo grado all'ergastolo. Addio Equitalia, da lunedì debutta l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. È morta Simone Weil, fu prima presidente dell'Europarlamento, aveva 89 anni, Macron la ricorda dicendo espressione della Francia migliore. Diritti civili, il Parlamento tedesco approva i matrimoni gay. E partiamo quindi dalla politica italiana con il Presidente della Repubblica Mattarella, che poco fa in un'intervista ha detto la scadenza naturale della legislatura è fine febbraio e la data naturale del voto è tra febbraio e inizio primavera. Naturalmente, dice Mattarella, è sempre possibile in ogni democrazia che si creino condizioni per elezioni anticipate. In questo momento non ci sono segnali di questo genere, per cui è probabile che si vada a scadenza naturale. Intanto c'è questo scontro a distanza tra il segretario del PD Matteo Renzi e il leader del campo progressista Pisapia. Renzi, che chiude domani l'assemblea dei circoli a Milano, ha evitato le polemiche, ha detto a noi interessa cambiare la vita delle persone, non inseguire le formule della politica del passato. Attesa intanto per il discorso di Pisapia, che sarà domani in piazza Santi Apostoli a Roma per la kermesse del movimento. Romano Prodi intanto, intervenendo a un appuntamento all'Acer, alle case popolari, ha ribadito la sua posizione: o abbiamo una legge elettorale che ci obbliga ad accorpamenti o non c'è mica niente da fare. E siamo al caso del piccolo Charlie in Gran Bretagna. Qualche ora in più è stata concessa alla mamma e al papà per stare vicino al figliolino di 10 anni prima che vengano staccati i macchinari che lo tengono in vita. I medici del Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato il neonato di 10 mesi affetto da una rara malattia classificata come incurabile, hanno concesso solo una breve proroga e i giovani genitori Chris Gard e Connie Yates, straziati, sconfitti nella battaglia legale per provare a sottoporre il figlio a una terapia sperimentale negli Stati Uniti nell'estremo tentativo di salvarlo e privati anche della possibilità di farlo morire a casa. l'ultimo oltraggio in una vicenda che ha scatenato forti polemiche in Italia, più ancora che in Gran Bretagna. Abbiamo parlato per tutto il giorno con l'ospedale e hanno consentito di darci almeno un po' di tempo con Charlie, questo ha detto la madre al Mail Online. Continua l'emergenza migranti, prosegue in Europa intanto quindi la discussione su questa emergenza che coinvolge in diverso modo i Paesi membri. Il presidente della Commissione Juncker tende la mano a Italia e Grecia. Ci saranno sforzi extra per aiutare Italia e Grecia nella loro lotta eroica per gestire i flussi migratori. Il presidente della Commissione Juncker rinnova la sua promessa di aiuti dopo la richiesta perentoria dell'Italia, che ha minacciato di chiudere i suoi porti alle navi dell'ONG battenti bandiera di altri paesi. Ma di fatto aiuti concreti a stretto giro da parte dell'Europa sarà difficile che possano arrivare. A gelare le aspettative dell'Italia è infatti il ministro dell'interno estone Andres Anvelt, che guiderà i lavori della riunione dei colleghi degli interni a Tallinn nella prossima settimana. Un vertice, dice, dal quale non arriverà nessuna risposta, ma aggiunge: ascolteremo dall'Italia quali sono stati i cambiamenti di quest'ultima settimana per vedere come affrontare la questione. Resta anche il freno tirato di Parigi, solidarietà sì, ma non sui migranti economici che sono l'80%, aveva detto ieri Macron. Intanto in Italia il boom di sbarchi dei giorni scorsi sta mettendo a dura prova la macchina dell'accoglienza, con il Viminale pronto a ritarare le quote concordate con i comuni, altrimenti si dovrà ricorrere alle tendopoli. Il piano del 2017 prevedeva 200.000 profughi da accogliere, servono 20.000 posti in più. Anche su questo riferirà il ministro dell'Interno Minniti alla Camera mercoledì. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. L'evasione di Johnny Lo Zingaro, ergastolano in semilibertà Giuseppe Mastini, 57 anni, terrorizzò Roma negli anni 80, detenuto a Fossano, provincia di Cuneo, doveva andare al lavoro a Cairo Montenotte, ma è scomparso da questa mattina. Ne parleremo, come dicevo, con uno scrittore, un cronista che si è occupato di cronaca nera per 40 anni, che sta pubblicando proprio un libro in questi giorni che parla di lui. E poi il delitto di Yara Gambirasio. A Brescia è iniziato oggi il processo d'appello a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne trovata morta il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d'Isola vicino Bergamo, a 3 mesi dalla scomparsa. I legali di Bossetti depositano una fotografia satellitare che, secondo la difesa, potrebbe dimostrare che il cadavere della ragazzina non è rimasto in quel campo per 3 mesi prima del ritrovamento. Il procuratore generale dice che la sentenza di primo grado, quella di ergastolo, è ineccepibile e ha una motivazione coerente, logica, completa e dà conto delle acquisizioni processuali. C'è stato un botta e risposta con Bossetti, che ha replicato: viene qua solo a dire idiozie. È morta oggi a 89 anni Simone Weil, prima presidente del Parlamento europeo. Al ritorno dai campi di sterminio nazisti, i pochi ebrei sopravvissuti decisero in larga parte di farsi cancellare i mostruosi tatuaggi dei numeri di matricola sulle braccia. Simone Weil, scomparsa oggi a 89 anni, non solo volle tenerlo, quel pazzesco 78-651 sul braccio sinistro, ma ne fece la bandiera delle battaglie di una vita, tanto da farlo addirittura incidere sulla spada che le venne data nel 2008 al momento dell'ingresso tra gli immortali dell'Accademia di Francia. In quella decisione c'è tutto quello che Simone Weil è stata: una donna forte, libera, coraggiosa, fiera e indipendente, fino a diventare un'icona non solo francese delle lotte per i diritti, soprattutto delle donne, e del sogno europeo. Nata in una famiglia ebrea laica, venne deportata con il padre, la madre, il fratello e le 2 sorelle. Dai campi tornarono solo lei e le sorelle. Entrata in politica da giovanissima con i centristi di Giscard d'Estaing, ha legato il proprio nome alla legge sulla legalizzazione dell'aborto nel 1974 e appunto al progetto europeo, diventando nel 1979 la presidente del primo Parlamento eletto a suffragio universale. Lo spirito di una nazione, ha detto Emmanuel Macron nel commentarne la scomparsa, si nutre di vite esemplari, come quella di Simone Weil, che ci ha dimostrato quello che si può fare quando si combatte per la libertà e per il progresso. Marco Mussanè, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. E adesso in Germania, dove il Bundestag, il Parlamento, ha approvato a maggioranza il matrimonio per tutti, un voto storico che rende possibile la piena parificazione dell'unione gay con i matrimoni eterosessuali. Incalzata dagli alleati socialdemocratici e anche dall'opposizione nei giorni scorsi, la cancelliera Merkel ha aperto a sorpresa il voto di coscienza. Lei però ha detto: ho votato contro, e tuttavia ha anche affermato: spero che il voto di oggi non solo promuova il rispetto delle differenze, ma porti anche più coesione sociale e più pace. Addio a Equitalia da domani. La ritrovo qui la notizia, stavo guardando velocemente, eccola qui, chiude Equitalia, al suo posto nasce l'ente pubblico economico, agenzia delle entrate riscossione, si chiamerà, restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio, lunedì cambia il logo, ci sarà la nuova modulistica, viene rinnovato anche il portale internet, sarà garantita una riduzione delle code, dei tempi di attesa, in tutti i 200 sportelli della vecchia Equitalia saranno presenti nuovi strumenti digitali salva fila, poi ci sarà modo di sperimentare. Intanto parliamo anche di saldi che partono da domani, segnali incoraggianti nell'avvio di domani in tutta Italia dei saldi. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, su anche i consumi che sono cresciuti dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% rispetto all'anno prima, appunto. Quindi diciamo che i commercianti sperano bene con la partenza dei saldi di domani. Si spera bene anche naturalmente per il mega concerto a Modena di domani di Vasco Rossi per i 40 anni di una carriera straordinaria. Cara Marta Cagnole, sarai lì? Sei già in partenza per Modena? Sono quasi in partenza, parto domattina alle 8:25 in treno, perché andare in auto è un'impresa, perché le strade saranno intasate, perché i parcheggi saranno impossibili, quindi io vado in treno e mi muoverò a piedi per Modena. Ma senti, Marta, ho sentito addirittura che questo mega concerto, un evento così straordinario, che anche per le misure di sicurezza, addirittura hanno rimandato gli esami di maturità e i funerali. Rimandati gli esami di maturità, i funerali non si potranno fare, immagino che si possa purtroppo lo stesso morire, ma non si potrà avere un funerale. E poi ci sono chiusi, e questo al giorno d'oggi è ancora più clamoroso, i centri commerciali. Centri commerciali, i saldi sono stati anticipati, dovevano partire domani, ma sono stati anticipati, altrimenti... C'è qualche problema, sarà già l'entusiasmo di Marta Cagnola per il concerto, oppure già le misure di sicurezza che restringono un po' le possibilità di comunicazione. Comunque, insomma, poi vediamo se riusciamo a riprenderla, ma ormai, sapete, notizia, diciamo, ormai di pubblico dominio, questo mega concerto tanto atteso, ci saranno veramente decine di migliaia di persone a Modena, vi potete immaginare anche le misure di sicurezza dopo quello che è successo a Manchester, per esempio. Ma insomma, ci auguriamo che vada tutto per il meglio e pare che sia in gran forma, tra l'altro, Vasco Rossi. Marta, eccoci, sei ritornata. Appaio al telefono, i mezzi tecnologici non ci hanno assistito, appaio al telefono. Allora, ieri sera un sound check, quindi una prova generale, per 15.000 persone, cioè i residenti della zona, ovviamente un minimo risarcimento per i disagi in questi giorni, e per gli appassionatissimi del fan club. Allora, io ho sentito meraviglie, non hanno potuto svelare granché, perché insomma la consegna è quella del silenzio, qualcosa è filtrato, però soprattutto la cosa importante, più di 3 ore di concerto con un Vasco estremamente in forma. Eh sì, lo vedevo, lo sentivo anche dall'intervista, dice che lui si sente... Ma quanti anni ha adesso, te lo ricordi tu, Marta? 65. Ragazzi. Ottima forma, e del resto, insomma, è diventato quasi una leggenda il rocker Vasco Rossi. Grazie Marta Cagnole, buon divertimento per domani allora a Modena. A presto, vi racconteremo tutto. Ciao Marta. Lui ha detto in un'intervista che ho sentito: ma io sono diverso ormai da quel Vasco Rossi che cantava per esempio Alba Chiara, poi sono diventato un rocker, la mia vita è cambiata. Però insomma rimane questo sempre un grandissimo classico, bellissimo, diciamo la verità, è all'inizio poi della sua carriera. Bene, lasciamo allora Vasco Rossi domani ai suoi fan a Modena e direi invece voi fan di Effetto Notte di continuare a sentire naturalmente la trasmissione fino alle 22 come sempre, per avere questa colonna sonora di aggiornamento tutti i giorni sulle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Allora, adesso c'è la viabilità, voi proseguite con i vostri commenti al 349-238-6666, che è un numero per messaggi WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio c'è Walter che dice, a proposito dell'affermazione di Gentiloni sul fatto che abbiamo agganciato il treno della crescita, dice: agganciato il treno della crescita economica, sì, in coda e attaccati con un filo, ma speriamo che sia qualcosa di più solido. E poi invece Clotilde dice: mi angoscia la storia del bimbo inglese, Penso allo strazio dei genitori, ma nello stesso tempo non credo che i medici siano crudeli, capisco gli uni e gli altri, ma quanto dolore. Certamente è una vicenda che ha fatto molto soffrire e molto discutere in Gran Bretagna, ma dicevamo anche molto in Italia, anche perché questo bambino di 10 mesi sembra, secondo i medici, che abbia dei gravi danni cerebrali per questa malattia genetica e anche sia praticamente tutto paralizzato, e quindi hanno pensato, i giudici in Gran Bretagna decidono, dicono, per il bene del bambino, perché soffre e soffrirebbe troppo. E mentre invece un ascoltatore scrive: non mi sorprende l'evasione di Johnny lo Zingaro, di cui parleremo tra pochissimo. Se il mafioso Graviano è riuscito a far sesso in cella, come aveva raccontato nei giorni scorsi, con sua moglie durante il 41 bis, insomma, figuriamoci. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora col filo delle notizie. Avete sentito il racconto, il riassunto della giornata. Come sempre, adesso cominciamo ad approfondire alcuni argomenti con gli ospiti. Tra pochissimo questa evasione eccellente, diciamo così, tra virgolette, di un personaggio noto che ha spadroneggiato a Roma negli anni Ottanta ed è riuscito a evadere. Purtroppo non è il primo, ogni tanto si sente di qualche evasione. Seguiremo anche nelle prossime ore se appunto il percorso, se le forze dell'ordine sono riuscite a intercettarlo, a raggiungerlo, oppure se è davvero svanito nel nulla. Speriamo sia questione di poche ore o semmai di qualche giorno, ma sarà interessante capire per l'appunto se arriveranno a capo di questa vicenda. Intanto, se non avete acceso puntualmente alle 21, sapete che vi ricordo i fatti principali e voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. Queste, vi dicevo, le notizie principali. Eccomi qua, Mattarella blinda il governo, dice che le elezioni dovrebbero esserci a scadenza naturale, quindi a primavera. Gentiloni assicura che l'Italia ha agganciato la crescita e Mattarella dice si vota a primavera bene sulle banche venete in un'intervista a Bloomberg. E poi più tempo ai genitori di Charlie, di questo bimbo inglese a cui nelle prossime ore dovrebbero staccare la spina, così hanno deciso i giudici britannici. C'è stato un breve rinvio, il papà dice bisogna vogliamo restare con lui, mentre anche si è aperta la polemica politica italiana con Grillo e Renzi che chiedono più attenzione per questi casi. Juncker, il presidente della Commissione europea, sull'emergenza migranti dice bisogna fare più sforzi extra per aiutare l'Italia e la Grecia, e anche la ministra della difesa Pinotti dice ormai veramente la situazione è oltre il tollerabile. E poi la Germania che approva i matrimoni gay, la Merkel dice però ho votato contro, ma spero che questo unisca ulteriormente e pacifichi la popolazione tedesca. Chiude Equitalia, arriva l'agenzia della riscossione, da lunedì ci saranno tempi d'attesa più brevi con un salvacode intelligenti. E poi, oltre alla fuga, all'evasione di cui parleremo tra pochissimo di Johnny lo Zingaro, oggi si è aperto anche il processo d'appello a Brescia per il delitto di Yara Gambirasio. Sapete che Massimo Bossetti è in carcere, condannato in primo grado all'ergastolo. Vediamo come proseguiranno le udienze. Johnny lo Zingaro, scarpe di serpente, con il suo sguardo lontano, birna la bruna, cuore di vetro, 7 anelli d'oro scuro per mano. Addirittura è stata dedicata una canzone, un film a questo personaggio. La sua un'evasione eccellente, vi dicevo, è un ergastolano in semilibertà che doveva andare nel carcere vicino Cuneo, doveva ritornare a Fossano, appunto vicino Cuneo in Piemonte, e andare a lavorare lì poco distante, però è scomparso da questa mattina. Johnny lo Zingaro in realtà è uno pseudonimo, diciamo, nome d'arte, perché il suo vero nome è Giuseppe Mastini, ha 57 anni e spadroneggiò, terrorizzò Roma negli anni 80. Sono numerosi i reati a suo carico, è finito, pensate, anche nell'inchiesta per la morte di Pasolini. Ma chi ce ne può parlare con cognizione di causa è senz'altro Massimo Lugli, che saluto. Ciao Massimo. Salve, buonasera a voi e chi ci ascolta. Giornalista della Repubblica, si è occupato di cronaca nera come inviato speciale per 40 anni, scrittore, tra l'altro, per un'assoluta straordinaria coincidenza, sta per uscire il suo libro a metà luglio che si intitola Il criminale della storia per Newton & Compton. È la storia un po' romanzata di questo criminale. Viene quasi il dubbio, scusami Massimo, che tu quasi l'abbia aiutato a fuggire per fare, diciamo, rilanciare un po' la pubblicità su questo libro tuo. Ti devo dire, ci ho pensato anch'io, gli scriverò un biglietto di ringraziamento. Come minimo. Ti devo dire, tra l'altro, io Johnny Lo Zingaro lo intervistai parecchi anni dopo. Io l'ho seguito, la sua carriera criminale l'ho seguita dal primo omicidio, quando aveva 14 anni, io ero un giovane cronista di Paese Sera, fino alle ultime battute. Lo andai a intervistare in carcere 10 anni dopo l'arresto e mi fece un'impressione pessima. Piangeva, si atteggiava disgraziato, a poveraccio, non aveva i soldi per il sapone, eccetera, eccetera. Si vedeva benissimo che stava raccontando un cumulo di menzogne. Faceva il commediante, insomma. Assolutamente, guarda, è uno dei criminali più feroci che io abbia mai incontrato in 40 anni in cronaca nera. Al confronto, Igor il Russo è una specie di boy scout. Ed è uno che ragiona non col cervello, ma con la pistola. Ha sempre sparato. La vita, perché poi noi sappiamo degli omicidi che sono tre: quello di Vincenzo Bigi quando aveva 14 anni, quello di Paolo Buratti nella villa di Sacrofano durante un'evasione che scattò sempre dopo che gli era stato concesso un permesso premio. Meditate, gente, meditate. E lui uccise il padrone di casa e ferì gravemente la moglie. E pochi giorni dopo, durante un insediamento della polizia, sparò a due agenti, uno rimase ucciso e l'altro menomato. Questa quindi, nonostante con tutto questo bel carico, era anche in semilibertà adesso, già aveva avuto quel permesso. Sì, tieni conto che parlare. In mezzo c'è il sequestro di una ragazza, tentativo di rapimento, sparatorio, un inseguimento con la polizia, in macchina quando lo presero durante una delle sue fughe aveva passamontagna, fucile a canne mozze e rotoli di nastro isolante, che fa pensare a un sequestro di persona. Insomma, l'unica cosa che non ha fatto è l'omicidio Pasolini, perché fu una delle tante accuse che Giuseppe Pino Larana, Pino Pelosi, lanciò così un po' a vanvera e disse che quella notte c'era anche lui, poi ritrattò lui stesso, quindi in realtà Johnny Lo Zingaro nell'inchiesta è entrato e uscito a passo di carica. Ecco. Per il resto è veramente un criminale spietato. Anche una figura abbastanza inconsueta in Italia, soprattutto a Roma, quella del bandito solitario. A Roma in genere sono paranze, no, di rapinatori o di assassini, insomma piccole gang. Invece lui ha sempre fatto più o meno tutto da solo. Da quello che dici, comunque irrecuperabile, sembrerebbe. Assolutamente. Guarda, io non ho idea delle valutazioni del magistrato di sorveglianza. Temo che siano quegli automatismi per cui tu, se ti comporti bene un anno, hai uno sconto di 4 mesi. Se non commetti reati, poi comportarsi bene non vuol dire assistere ai detenuti handicappati o curare la biblioteca, vuol dire semplicemente non commettere reati. Probabilmente non hai avuto l'occasione. Non è da escludere che stesse programmando una soluzione di questo genere, perché è sempre fuggito, un uomo di evasione. Credo che abbia 3-4 evasioni a suo carico, sia durante i permessi, sia durante la prima a 15 anni, quando lo arrestarono per l'omicidio del tranviere, aggredì una guardia carceraria con un pezzo di ferro e scappò insieme a altri 4 ragazzini di 14-15. Staremo a vedere se questa volta lo riacciuffano e magari danno ancora, chissà, un premio di buona condotta. Grazie Massimo Lugli, lo ricordo, il tuo libro Il criminale esce per Newton & Compton il 16 luglio, se non sbaglio. Sì, il 16 luglio. Grazie Massimo. Se l'avranno già ripreso. Ma se no ti tocca scrivere poi un altro libro. Grazie Massimo. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci. Ora invece con la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice del Politica del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Ci occupiamo della politica italiana. Mattarella, hai sentito poco fa in questa intervista, ha detto, insomma, penso che il voto per le politiche ci sarà a primavera, dovrebbe arrivare a scadenza naturale, insomma, questa legislatura. Però diciamo che questa settimana è stata dominata un po' tutta dall'atmosfera dei dopo ballottaggi delle amministrative, no? Con il bilancio dei risultati, la vittoria del centrodestra, quindi soddisfazione di Berlusconi, di Salvini, la sconfitta per il centrosinistra, i risultati decisamente deludenti anche per il Movimento 5 Stelle, e con dopo questi ballottaggi, nel centrodestra il ping pong che continua tra Salvini e Berlusconi, Salvini che accusa Berlusconi di ammiccare un po' troppo a Renzi, Berlusconi che smentisce, prove di avvicinamento tra Salvini e Movimento 5 Stelle, di cui si parla già da un po', mentre dall'altra parte nel centrosinistra questa sconfitta ha riacceso ostilità, polemiche, qualche veleno, anche poi tutta la polemica con Prodi, la sua tenda, no? Che Renzi ha detto di spostarla un po' più in là, ha detto sì, me la prendo, me la metto in uno zaino leggera, mi allontano tranquillamente, anche se vedo che in questi giorni, poi difeso da molti all'interno del PD, Prodi proprio oggi è ritornato a dire qui si va verso il sistema maggioritario, se no non c'è stabilità e futuro per l'Italia. Insomma, diciamo tante cose nella pentola, Barbara, in vista delle possibili alleanze proprio di questo appuntamento elettorale di cui parlava Mattarella, no? Sì, diciamo che la prima avvisaglia l'abbiamo avuta già all'indomani delle elezioni, quando si è deciso di rinviare a settembre per l'appunto la discussione sulla legge elettorale con la placet praticamente di tutti. Oggi Mattarella ci dice che le elezioni anticipate praticamente sono da escludere salvo colpi di scena. E quindi quantomeno sappiamo che la legislatura, come già si immaginava dopo il voto di domenica scorsa, arriverà a scadenza naturale. Quanto a tutte le vicende, sono legate in qualche modo anche alla legge elettorale, sia ai contrasti all'interno del centro-sinistra, sia anche ai contrasti all'interno del centro-destra, perché è evidente che un sistema elettorale, cioè quando tu decidi una partita con che regole giocarla, determina anche la forza dei tuoi avversari o dei tuoi alleati. Facciamo l'esempio concreto per far capire i nostri ascoltatori. Con un sistema proporzionale, qual è quello che abbiamo attualmente tanto per la Camera che al Senato? Sono diversi, ma sono proporzionali entrambi. Di fatto non c'è bisogno né di indicare il candidato premier, non c'è bisogno, cioè poi lo indicheranno anche, ma nella consapevolezza che non è che ci sarà una forza che potrà aggiudicarsi i voti, anche se qualcuno arrivasse al 40% alla Camera, difficilmente potrebbe ottenere lo stesso risultato al Senato per una quindi serie le di coalizioni sono necessarie, che piacciono o no, gli accorpamenti, come dice Prodi, gli accorpamenti sì, ci saranno. Poi per quanto riguarda quello che diceva Prodi sul maggioritario, Prodi non ha ragione, ha stra ragione. Il problema, e lo abbiamo visto con le ultime elezioni proprio di domenica scorsa, cioè per i sindaci c'è un sistema maggioritario, c'è un primo turno, c'è un secondo turno, si decide gli elettori che hanno votato magari al primo turno per altre liste e altri candidati sindaci decidono poi qual è tra i due, insomma, che sono usciti dal primo turno come vincitori, a chi assegnare, insomma, la palma per andare a guidare il loro municipio. A livello nazionale, quindi per il governo del paese, questo non è possibile. Noi abbiamo avuto due sistemi maggioritari, uno è il Mattarellum e l'altro è stato il famigerato Porcellum. Due sentenze della Corte Costituzionale e poi abbiamo avuto l'Italicum, ma scusate, dimenticavo l'ultima, l'Italicum, che non ha fatto neanche la prova a essere provata, testata dai nostri dagli elettori, perché è stata cassata prima dalla Corte Costituzionale. Quindi e i risultati appunto di queste due sentenze sono due sistemi proporzionali. Allora tutte queste beghe, ti allei con me, non ti allei con me, in realtà poi mi sembra tanto un gioco tattico, sinceramente, e soprattutto un gioco a non far vincere il proprio avversario. Cioè non è tanto per fare qualcosa, ad esempio quello che Prodi, perché se non facciamo un sistema maggioritario non ci sarà un governo per il paese, questo governo non avrà una maggioranza stabile. Questo mi sembra che ai partiti, tutti i partiti, dal centrodestra al centrosinistra, passando per i 5 Stelle, interessa a pochi. E faccio un esempio, la cosa più semplice sarebbe stata tornare a una legge che aveva tutti i crismi della costituzionalità, che era il Mattarellum, porta anche il nome dell'attuale capo dello Stato, perché fu lui a proporlo e a portarla avanti, però che era la proposta iniziale del PD, se vi ricordate, ma parlo del PD fin dai tempi del governo Letta. Questa proposta non è passata perché non piaceva a Forza Italia, ma non piace neanche ai grillini. Poi si è passati ad altre proposte, ma ogni volta, per un motivo o per l'altro, c'era qualcuno che diceva no. Allora, alla fine, se si dice sempre no, è evidente che poi si vuole lasciare le cose come stanno. Mm. L'unico tentativo di accordo, se ricordate bene, fu sul famoso Tedeschellum. Poi 5 Stelle si sfilarono anche da quello, insomma. Barbara, però domani c'è questa kermesse, questa grande manifestazione, sì, lanciata dall'ex sindaco, sì, di Milano Pisapia, per creare questo soggetto pensato per aggregare la sinistra italiana, no? Ci saranno appunto Pisapia, Bersani, presente anche Orlando, il ministro della giustizia Orlando del PD, vari pezzi del PD domani, Sì, ci saranno Piazza anche Sant'Apostoli. Sì, diciamo che dal mio punto di vista Piazza Santi Apostoli non è un bel ricordo, perché non è la piazza, cioè è la piazza. Non era dove era nata l'Unione di Prodi, Piazza Santi Apostoli. Sì, ma l'Unione non è stata una bella unione, insomma, cioè l'Unione effettivamente non è, perché molti confondono l'Ulivo con l'Unione, cioè l'Ulivo del 97, quello che portò Prodi alla vittoria, che poi portò l'Italia nell'euro, ma non ha niente a vedere con quello che fu l'Unione, che arrivò invece nel 2005-2006 e che fin dall'inizio, ricordiamo, io ricordo perché seguivo per il giornale la notte dello scrutinio, quando ci furono i famosi 20.000 voti di differenza tra centrodestra e centrosinistra in quell'occasione, beh, insomma, cioè lì fu una vittoria praticamente per il rotto della cuffia, e il giorno dopo cominciarono subito a litigare, perché come si vede nella foto di Caserta, che era la foto, diciamo, per stilare questo programma dell'Unione, c'erano 40 e passa teste. E insomma, mi sembra un po' di rivedere una cosa analoga. Di cattivo auspicio, secondo te. Comunque, Barbara, abbiamo pochi secondi, se vuoi commentare questa battuta di questo ascoltatore, Enzo, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che dice: il capolavoro dei grillini fa rinascere Silvio. Condividi? Diciamo che certamente il fatto che possano avere degli atteggiamenti molto forti, di ipotizzare un'alleanza con la Lega, da parte della Lega soprattutto, perché i grillini tendono a voler essere autonomi, in qualche modo favorisce certamente un'area più moderata. Comunque, insomma, immarcescibili Silvio Berlusconi e Romano Prodi, forse perché gli esponenti attuali più giovani della classe politica non sono all'altezza, chi lo sa. Rimaniamo con questa domanda inquietante, cara Barbara Fiammeri, perché ci dobbiamo lasciare. Ti auguro buon fine settimana. Anche a voi, buonasera. Ciao Barbara. Pausa quindi, voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con il filo delle notizie. Abbiamo parlato ampiamente di politica e abbiamo parlato con chi sta scrivendo un libro proprio su di lui, di Johnny Lo Zingaro, 57enne, evaso dal carcere vicino Cuneo, che ha a suo carico una serie di omicidi di cui abbiamo parlato, e speriamo, insomma, che le forze dell'ordine si mettano presto sulle sue tracce, visto che era in semi libertà, nonostante, insomma, con vari permessi premio ne avesse combinate di cotte e di crude. Adesso vedo una notizia che danno le agenzie di pochi istanti fa. Veniva dagli Stati Uniti, sparatorio in un ospedale del Bronx, vari feriti. Sapete che ogni tanto, questo è lo scotto che pagano negli Stati Uniti, parte che è una società già particolare, ma col fatto anche di avere accesso alle armi così facilmente. Però parleremo tra poco di una questione di cronaca nera che riguarda noi italiani, ma che in realtà ha avuto una grande eco nel mondo, perché sono state fatte delle indagini veramente senza precedenti. Adesso però vi ricordo molto velocemente quali sono i fatti principali della giornata, che sono appunto le dichiarazioni di Mattarella sulle prossime elezioni politiche, che dice dovrebbero esserci a inizio primavera, quindi a scadenza naturale della legislatura, mentre Prodi torna a raccomandare il sistema maggioritario e c'è scontro a distanza tra Renzi e Pisapia. Pisapia che domani lancia questa manifestazione a Roma per creare il nuovo centrosinistra. E poi il caso del piccolo Charlie: i medici concedono più tempo ai genitori per stare col figlio prima di staccare i macchinari che lo tengono in vita. Migranti: il presidente della Commissione europea Juncker annuncia nuovi aiuti a Italia e Grecia. E poi il delitto di Yara Gambirasio: a Brescia è iniziato il processo d'appello, di cui parleremo tra pochissimo. Addio a Equitalia: da lunedì debutta l'agenzia delle entrate riscossione. Commissione. Si chiamerà È morta Simone Veil, fu la prima presidente dell'Europarlamento, aveva 89 anni. Il presidente francese Macron dice di lei fu l'espressione della Francia migliore. Diritti civili, il Parlamento tedesco approva i matrimoni gay. Torniamo quindi sul caso della piccola Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate, vicino Bergamo, che il 26 novembre 2010 fu seviziata e poi lasciata morire tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola. I suoi resti infatti furono trovati tre mesi più tardi, in un campo incolto a 20 minuti da casa. Per questo delitto l'unico indagato e nonché condannato all'ergastolo è Massimo Giuseppe Bossetti, carpentiere di Mapello, sempre vicino Bergamo. Un caso che, sapete, ha colpito in modo eccezionale l'opinione pubblica, un vero caso mediatico, ma anche e soprattutto perché sono state fatte un tipo di indagini per riuscire ad arrivare al colpevole, al presunto tale. Adesso vediamo che cosa succede oggi che è iniziato questo processo d'appello a Brescia. Sono state fatte veramente parte impiegate risorse, ma anche delle indagini ad altissimo livello. Ne parliamo con Vittorio Attanà, giornalista dell'Eco di Bergamo. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Che segui dall'inizio questo caso, ci racconti proprio in sintesi, ci ricordi davvero in cosa sono consistite queste indagini eccezionali per arrivare a Bossetti, almeno fino a questo momento? Sì, sono state indagini al limite dell'incredibile, la fantasia di un romanziere non avrebbe potuto arrivare a tanto, permettimi di dire. Scompare una ragazzina, viene trovata morta purtroppo tre mesi dopo. Il suo corpo permette di arrivare ad alcuni indizi, fra cui un profilo di DNA ritenuto molto buono e altamente indiziante perché ritrovato sui suoi slip, e parte una campagna di ricerca genetico-investigativa che non ha precedenti nella storia, perché alla fine verranno prelevati profili biologici a più di 20.000 persone. Incredibile, per 20.000 persone, infatti. Dopodiché, non ha precedenti, penso, nel mondo. Dopodiché queste indagini sono piene di colpi di scena, no? Perché si arriva col DNA ai parenti di quello che poi appunto è il condannato, Massimo imputato. Bossetti, sì. Imputato, però attraverso tra l'altro la patente, la foto della patente, il francobollo che c'era, il bollo su questa patente di un uomo che era morto e che aveva avuto questo figlio, sempre secondo queste indagini, fuori dal matrimonio con una donna che poi, quando è stata fermata, ha negato di aver fatto questo figlio con un altro uomo che non fosse il marito che aveva quando l'hanno ritrovata, no? E poi Vittorio? E poi è partita, trovato il padre, e anche lì è stata, ovviamente tu hai sintetizzato molto, ma le cose sono andate così. È partita la ricerca della madre, perché arrivati al dato genetico del padre è appurato che i figli anagrafici di quest'uomo non avevano il profilo biologico di ignoto 1, quindi non erano assolutamente e quindi coinvolgere nell'indagine. Bisognava risalire a qualcun altro. Sintetizzo, perché la storia è molto appassionante, però abbiamo poco tempo. Vittorio, e oggi quindi che cosa è stato detto durante l'udienza? C'era presente Massimo Bossetti, mi pare che fosse anche abbastanza in forma, leggevo un po' dai commenti. Sì, allora l'udienza è stata impegnativa, è durata circa 9 ore. Dopo la relazione introduttiva del Presidente della Corte d'Assise ha parlato il Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo la conferma della condanna all'ergastolo di Bossetti, e non solo, ha chiesto anche che la sentenza di primo grado venga riformata riguardo alla assoluzione dal reato di calunnia per le affermazioni che Bossetti aveva fatto nei confronti di un suo collega di lavoro verso il quale aveva adombrato dei sospetti. E condanna quindi che, secondo la Procura Generale, va fatta in appello in questa sede a 6 mesi di isolamento, quindi ergastolo più 6 mesi di isolamento è la richiesta della pubblica accusa. Poi hanno parlato le parti civili, quindi i legali della famiglia Gambirasio, che si sono associati alla richiesta di conferma dell'ergastolo per il reato d'omicidio. Anche loro, come la Procura Generale, hanno sottolineato la bontà delle analisi effettuate sul DNA e quindi alla certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo loro, della responsabilità penale di Bossetti. Vittorio, tra l'altro è veramente Incredibile la difesa strenua che fa anche la moglie di Bossetti, no? E anche i parenti intorno a lui. Sì, rappresenta a in aula, la moglie di Bossetti rappresenta in aula così come la madre e così come la sorella gemella, quindi a testimoniare una forte sostegno. Convinzione appunto del sostegno nei confronti dell'imputato e della sua innocenza. Senti, quando ci sarà la sentenza di questo processo d'appello più o meno? Dunque, se verrà mantenuto il ritmo odierno, si va probabilmente metà luglio. Al 14 di luglio. Sì, perché il calendario di udienza prevede la prossima il 6 di luglio, la successiva il 10 e infine il 14. Non dovrebbe andare oltre, insomma. Va bene. Esatto. Vittorio... La parola sarà alle difese già dalla prossima udienza, per cui dovrebbe arrivare a metà luglio. Dopo c'è la sentenza. Ci riaggiorniamo, Vittorio, anche perché appunto oggi so che ha avuto anche questa replica aggressiva. Bossetti ha detto al PM sta dicendo soltanto idiozie, insomma questo è normale, sarà nervoso e poi insomma bisogna vedere lui che convinzioni ha. Comunque seguiremo il corso della giustizia, come si dice, e vedremo poi le prossime udienze come procederanno. Grazie Vittorio Tanà dell'Eco di Bergamo. Ciao Vittorio, viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo, quelle principali in pochi secondi. Roberta Giordano sempre con voi. Abbiamo appena parlato dell'inizio oggi del processo d'appello per il delitto di Yara Gambirasio. Massimo Bossetti è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Adesso con la prima udienza si vedrà poi come si procede. Si arriverà alla sentenza, probabilmente, dicevamo, a metà luglio. E poi elezioni politiche. Il presidente Mattarella dice probabile che il voto sia entro inizio primavera. Il caso del piccolo Charlie in Gran Bretagna. I medici concedono più tempo ai genitori per stare col figlio prima di staccare i macchinari che lo tengono in vita. Migranti, il presidente della Commissione europea Juncker annuncia nuovi aiuti a Italia e Grecia. E poi addio Equitalia, da lunedì debutta l'agenzia delle entrate e riscossione. Diritti civili, il Parlamento tedesco approva i matrimoni gay, di cui parliamo adesso. E adesso il tema dei diritti civili, perché sapete che il Parlamento tedesco, il Bundestag, oggi ha dato il via libera ai matrimoni gay. È stata quindi approvata a maggioranza la legge che garantisce pari dignità tra nozze eterosessuali e nozze tra le persone dello stesso sesso. La cancelliera Merkel in realtà ha detto che lei aveva votato contro, che però, è anche questo, diciamo, è una scelta, una decisione storica, ha lasciato libertà di coscienza, libertà di voto ai deputati della sua coalizione. Quindi il Parlamento tedesco ha fatto questo passo storico e fa entrare in questo modo la Germania tra i paesi, è il 23esimo paese dove le coppie dello stesso sesso possono convolare a nozze con gli stessi diritti delle coppie eterosessuali. Diciamo che quindi è un passo che è stato reso possibile anche proprio da questa apertura della cancelliera Merkel. Una fetta dei conservatori, quindi del suo partito, aveva minacciato anche di fare ricorso, però va detto che in Germania gli ultimissimi sondaggi dicono che la stragrande maggioranza della popolazione e anche degli elettori della CDU, che è il partito della Merkel, sono favorevoli ai matrimoni gay. Quindi insomma, diciamo, la società è già pronta a tempo, come spesso succede, è avanti alla politica. E in Germania in realtà esistevano già Eingetragenen Partnerschaften tedesco, cioè le unioni civili, e questo è stato un passo ulteriore. Finora erano 14 paesi in Europa che riconoscono pari dignità tra nozze gay e nozze eterosessuali, adesso si è aggiunta anche la Germania. Vi do velocemente qualche dato. Il primo stato a regolarizzare le unioni civili in Europa è stata la Danimarca nel 1989, poi è passata ai matrimoni. La prima legge per il riconoscimento invece dei matrimoni veri e propri è stata in Olanda nel 2001 e il primo matrimonio religioso tra persone dello stesso sesso in Svezia nel 2009. Pensate che l'Irlanda, paese cattolicissimo, di recente ha varato i matrimoni gay con un referendum, mentre tutti gli altri paesi legiferanno, insomma, attraverso il Parlamento. Di questo voglio parlare con Gianettore Gassani, che è presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Gassani, buonasera. Eccomi, buonasera. Da matrimonialista, quindi, cosa pensa di questo passaggio? Mi meraviglia affatto che la Germania abbia inteso introdurre il matrimonio, visto che anche altri paesi del nord Europa lo hanno fatto, e devo dire che la Merkel è stata intelligente nel capire che il comune sentire tedesco e anche del partito probabilmente propendeva per questo passo in avanti, perché dalle unioni civili al matrimonio c'è una grossa differenza, almeno in Germania c'era, in Italia no, per esempio, in Italia le unioni civili sono un vero e proprio matrimonio a tutti gli effetti. Là veramente sono un discorso terminologico più che contenutistico. Quindi Gassani sta dicendo che in Italia le unioni civili in realtà sono già formalmente, giuridicamente un matrimonio, anche se il nome non è esattamente quello? Si è giocato sul nome, ma la struttura portante della legge sui unioni civili è sovrapponibile a quella che regola le norme del matrimonio, stessi diritti e stessi doveri, assegni di mantenimento, diritti successori, obbligo di convivenza, manca solo l'obbligo di fedeltà, infatti, ma per sì. Il resto credo che fondamentalmente matrimonio e unioni civili siano la stessa identica cosa. Anche nel caso di divorzio, no? Anche nel caso di divorzio, infatti, chi è unito civilmente prima deve fare una domanda, un'istanza all'ufficio di stato civile con la quale chiede lo scioglimento del legame, dopodiché nei corsi di 3 mesi deve presentare un ricorso per divorzio davanti al tribunale civile, quindi si applica la stessa legge che si applica al matrimonio. Per chiudere, Gassani, Merkel, che appunto aveva detto di aver votato contrario, aver fatto un voto contrario, però è invece disponibile, ha detto che ha cambiato idea sulle adozioni, quindi è disponibile anche un'apertura per le adozioni da parte delle coppie gay, adozioni vere e proprie, non la stepchild adoption. E poi ha detto una cosa importante, che dice spero che questo passo serva a fare un ulteriore passo di civiltà e anche a pacificare ulteriormente il paese. È importante, no, questo concetto? Sì, è molto importante. Ed è molto importante che la Germania capisca che nel momento in cui si riconosce il matrimonio, inevitabilmente si conosce anche l'adozione. Ci sono tantissimi bambini rinchiusi negli orfanotrofi di mezzo mondo. È chiaro che è meglio che vengano adottati, ovviamente con tutti i controlli che ci vogliono su ogni coppia, piuttosto che rimangano chiusi negli internati. Io credo che anche in Italia dovremmo ragionare così. Dovremmo concedere anche ai single la possibilità di adottare, perché non è possibile pensare che si preferisca un bambino chiuso in un orfanotrofio piuttosto che aiutato da una persona che lo vuole amare e lo vuole aiutare. Quindi lo ricordo, insomma, il 15° stato dovrebbe essere dei 23 al mondo, la Germania, vedremo quale sarà eventualmente il prossimo. Grazie Gianettore Gassani, grazie avvocato. Arrivederci. E adesso è subito tempo di sapere che tempo farà con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caro Paolo. Buonasera Roberta, buonasera a tutti, buone notizie sotto tutti i punti di vista. Bah, cominciamo dal caldo delle regioni prendo meridionali. Prendo appunti, sì. Brava, caldo nelle regioni meridionali, anche oggi punte di 40 gradi all'estremo sud, finalmente si attenua questo caldo, già domani qualche grado in meno e domenica arrivano venti di tramontana e maestrale, quindi al sud si torna a respirare finalmente. Invece per quanto riguarda i temporali del centro nord, che continuano ad essere molto frequenti, si attenueranno anche loro, quindi ne ritroveremo già domani molti meno, interessano principalmente le zone montuose, e domenica basta, usciamo dal tunnel anche al centro nord per quanto riguarda queste piogge. Morale, ci attende un weekend che sarà più sole che altro e con temperature che saranno piacevoli, e ti aggiungo che settimana prossima nel complesso sarà una settimana buona estiva e con temperature non eccessivamente alte. Mamma mia, ti sei dato parecchio da fare in questi giorni per aggiustare tutte queste cose, grazie. Bravo, eh? Grazie Paolo Corazzon di Trevi Meteo, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo. E quindi ritorno, come sempre alle 22 per brevi aggiornamenti.